pats, ah, i so pats. E vuoi essere chi vuoi uscire fuori da casa mia? I so pats, i so pats. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Io sono pazzo. E oggi voglio parlare. So pazzo, si sento sta nervatura, metta tutto in faccio a me. So pazzo, io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nego non sia più bello. E non sono meno umano, sono pure di romano. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io so pazzo. Io sono pazzo, un cisca stato cazzo.